Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Scrissi un istante fa, nelle mie protesi emozionali che trasferiscono messaggi, video, impressioni e pensieri, sia in Facebook che in Twitter, in tutte le propaggini di questo nuovo Melog, la realtà condivisa, esattamente il senso di questa trasmissione. Oggi avrei parlato delle protesi tentatrici. Probabilmente alla radio non è immediatamente percepibile quello a cui alludo, ma Gabriele su Twitter ha immediatamente risposto. Oggi a Melog Nicoletti si parla di figa googling e promiscua sharing. Non poteva esserci argomento a me più caro e di questo parlerò. Keylogger è uno strumento invisibile di sorveglianza e registrazione dei tasti premuti sulla tastiera, un software spia che registra ogni attività sul tuo PC. Il Keylogger ti permette di tracciare segretamente tutte le attività di tutti gli utenti del computer e di spedire automaticamente i log all'indirizzo email desiderato. Potrai leggere le conversazioni di chat, leggere le email e persino guardare i siti visitati. Puoi avere il controllo su tutto, puoi memorizzare tutti i tasti battuti, caratteri speciali compresi, conversazioni e messaggi di chat, password, email, informazioni negli appunti, suoni del microfono, screenshot catturate, attività del desktop e su internet. Il nostro Keylogger si attiva automaticamente all'avvio di Windows ed è completamente invisibile. Forse per questo ho virato da qualche anno su un bel Mac, ma non volevo entrare in merito a quello, quell'altro hardware, quell'altro sistema operativo, ma vi fa riflettere il fatto che oggi si compia tanta fatica nelle famiglie italiane nel aggiungere tecnologia a tecnologia. Noi stiamo parlando di una nostra arretratezza rispetto all'aggiornamento con le nuove tecnologie, alla nostra coscienza digitale che sarebbe così labile, così lontana rispetto a paesi più avanzati, ma io rimango dell'opinione che gli italiani, laddove trovino profitto, interesse, divertimento e passatempo, imparano immediatamente, apprendono all'istante. Infatti, questa mattina vorremmo far capire quanto, ahimè, questo una sorta di digital divide che sembra per noi così pesante sia stato in realtà già ampiamente superato in seno all'armonia delle famiglie, dei rapporti amorosi, delle relazioni consolidate. Se si aggiunge tecnologia a tecnologia in maniera così compulsiva per trasformare delle macchine che nascono come macchine da lavoro, da passatempo, da diletto, ma diventano dei fantastici incursori sentimentali, dei moltiplicatori di sensazioni intime, dei fantastici scrutatori e apparecchi di pesca a strascico laddove ci sia desiderio, velleità, curiosità di allacciare, anche seppur in maniera incorporea, almeno in una prima fase, relazioni, evidentemente qualcosa sta accadendo. I dati mi dicono che Facebook è la causa di un terzo di divorzi in Gran Bretagna. Hanno fatto una ricerca, anni fa si parlava della Francia, che era un paese più abituato attraverso i sistemi di chat telefonica, furono fra i primi a usare il Minitel, la gente chattava attraverso il telefono, sembrava qualcosa di fantastico alle nostre latitudini, ma i francesi cominciarono a capire che in realtà l'essere umano probabilmente in questa fase della sua evoluzione può moltiplicare la sua capacità di relazione. Noi possiamo essere sentimentalmente, emozionalmente, sensualmente multitasking, come possiamo fare molte operazioni che nemmeno immaginavamo prima contemporaneamente, possiamo scrivere, pensare, telefonare, seguire, lavorare proficuamente, operare su delle macchine in maniera compulsiva ma attivissima, possiamo fare la stessa cosa con le nostre relazioni. Mai avremmo immaginato di poter gestire 6, 7, 8, 10, 1000 persone con le quali, se uno ha tempo a disposizione, se uno ha disponibilità, se uno ha capacità di illusione verbale sufficiente e di espressione grafica convincente, può tranquillamente simulare a se stesso di avere un'infinità di relazioni. Ora, i neoluddisti e coloro che impugnano la natura come fosse qualcosa di sacro e inviolabile dicono, eh sì, ma vivono in un mondo onirico, io preferisco la sana, concreta e radicale carne. Beh, non mantenetevi troppo in questa illusione, o perlomeno rimanteneteci se avete persone a voi care che vedete molto impegnate con i loro strumenti di smartphone, di tablet, di computer di casa, perché evidentemente una precipua parte di queste relazioni che voi in maniera superficiale giudicate virtuali e del tutto superficiali hanno un loro normale, radicale e concreto sfogo, come natura insegnava dall'inizio dell'umanità. 800240024, vi siete mai lasciati tentare? Avete avuto naufragi e tragedie in famiglia proprio perché gli strumenti tentatori portano le persone lontano? O alla stessa maniera, se avete avuto esperienze di amici, persone conoscenti che attraverso la tentazione della protesi hanno cambiato radicalmente il loro modo di concepire la relazione. Software spia di ultima generazione per iPhone. Questo eccezionale software riesce a monitorare costantemente l'iPhone sul quale viene installato e risulta totalmente invisibile. Le magnifiche funzioni di questo dispositivo sono: memorizzazione degli SMS. Ogni SMS in entrata o in uscita verrà memorizzato e sarà possibile leggere l'intero testo. Memorizzazione delle chiamate. Ogni chiamata in entrata o in uscita verrà memorizzata con le informazioni riguardanti la durata complessiva, la data e l'ora in cui è avvenuta. Memorizzazione GPS. Ogni volta che il dispositivo riesce a connettersi alla rete satellitare, ne memorizza la posizione. Potrete quindi vedere sulla cartografia con precisione la mappa. Memorizzazione dei siti visitati. Ogni sito che viene visitato e ogni pagina internet vengono registrati direttamente nella memoria, permettendo così di sapere ogni cosa fatta sulla rete internet. Nulla sfuggirà al vostro controllo. Eh sì, c'è questo piccolo particolare doloroso, ma del quale dobbiamo comunque fare conto, in attesa che arrivi la società del futuro, quella profetizzata da Jacques Attali, in cui questa sorta di multitasking emotivo ristrutturerà completamente la società. Non esisterà più la famiglia come l'abbiamo noi finora sempre concepita, sarà una società molto allargata. Accadrà nel mondo concreto quello che già accade nel parallelo mondo incorporeo. Beh, in attesa di questo è bene che sappiate comunque che ogni vostro palpito, ogni vostro sentimento, ogni vostro passaggio rimane da qualche parte registrato. Ora, che sia abbastanza scafato o scafata il vostro partner per intercettarlo, questo non lo so, non entro nelle vostre vicende personali, però qualcuno può farlo. Attizzata da un sospetto, una persona potrebbe muoversi e mettere in atto alcune delle procedure che abbiamo riassunto in questi servizi. In questo momento sono collegato con il mio tablet e chi volesse può esattamente vedere sulle mappe dove io in questo momento sto, il punto esatto da cui sto trasmettendo. E questo accadrebbe anche se io uscito da qua mi facessi una passeggiata, entrassi in un portone e consumassi, cosa che non farei mai nella vita, un clandestino rapporto amoroso. Beh, sarei comunque tracciato, a meno che mi liberasse di tutte le protesi che ho addosso e le lasciassi a un amico fedele che si fa un giretto che ne so, verso la Scala Santa o verso qualche santuario, così potrei sempre dire che in quel momento sto pensando alla salvezza della mia anima. Gian Ettore Gassani, buongiorno. Buongiorno. Gian Ettore Gassani è stato già nostro ospite, presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, è autore del libro I Perplessi Sposi, edizione Aliberti, che sintetizza tutto ciò che sta accadendo nel campo della crisi matrimoniale. Lui in questo è un grosso esperto. Questa mattina però ti vogliamo portare a ragionare su quanto nel tuo lavoro entrano in gioco le protesi emozionali, quelle che chiamiamo così, le protesi tentatrici, cioè, come vuoi te. Ma hanno un'incidenza formidabile, lo scrivo nel libro ampiamente, e Facebook, Twitter, ma anche Glidden, che è un sito proprio per traditori sposati. Beh, quello è fatto apposta. Quello è fatto apposta. Cioè, uno che si scrive lì è come dire, sì. Mi faccio tatuare sulla testa, vado in cerca di emozione. Certo. E diciamo che Facebook è nato un po' per la socializzazione, oggi c'è per la pesca a strascico. se si cerca l'anima gemella online, spesso questi rapporti restano virtuali, ma ci sono casi di rapporti che poi diventano reali. E le separazioni e i divorzi fioccano ormai anche in Italia a causa di questi rapporti su Facebook, soprattutto su Facebook, ma anche su Twitter. Ecco, come avviene, diciamo, quando si va in sede di dibattimento e il tradito porta le sue prove, come viene concretizzato il frutto di tutti questi aggeggi di cui abbiamo parlato prima? Ma questi aggeggi esistono nel senso che sono molto più comuni di quanto si possa pensare. Molti investigatori li utilizzano, molti avvocati lo stesso. Ovviamente c'è un problema di utilizzabilità di queste ecco, prove. È legale usarli? Ma a mio sommesso parere no. Io tante volte mi oppongo in tribunale rispetto alla produzione di prove documentali, la stampata di email piccanti. Noi riteniamo che questa sia corrispondenza a tutti gli effetti, un po' come la raccomandata, un telegramma. Ovviamente però ormai basta dire che questi documenti sono stati trovati nel cassetto della moglie, non sono stati stampati dal computer da parte di chi è tradito. Quindi ha il suo peso comunque, un giudice che vede scritto attraversami col tuo aratro di fuoco, un'idea se la fa. Beh, infatti poi nel libro ho scritto nei Perplessi Sposi delle frasi anche abbastanza esilaranti. Delle più usate. Esatto. E il problema è che però fondamentalmente ormai la giurisprudenza utilizza queste prove e dovete capire che oggi l'adulterio virtuale, il tradimento virtuale, ha un peso specifico anche sul piano della debitabilità, cioè della cosiddetta ex colpa, per cui non è necessario avere poi un rapporto sessuale con quella persona, basta flirtare, basta creare le condizioni per toccare il rapporto fiduciario il log, cioè la stampata di una infuocata discussione in una chat qualsiasi, è già prova di adulterio, di tradimento. Non occorre, diciamo, che ci sia un atto penetrativo completo. No, ci sono due, ripeto, è una terminologia giuridica, non è che ci sono delle situazioni veramente incredibili. Da una parte la Cassazione tende a non addebitare più le infedeltà, se si mostra che l'infedeltà era la conseguenza e non la causa, è la causa e non la conseguenza di una crisi già in atto. Però poi ci sono sentenze di segno opposto che dicono che basta flirtare, basta scrivere delle frasi, delle parole o magari richiedere anche un appuntamento amoroso per poter andare a minare il rapporto fiduciario nella coppia sposata. Per cui c'è una sorta di schizofrenia giurisprudenziale che dobbiamo togliere di mezzo. Certo è che oggi Facebook è un canale particolarmente pericoloso, perché tra l'altro anche grazie ai vari software che ci sono in giro, ma anche a varie altre questioni che, insomma, di hacker, pirati che entrano nella tua posta elettronica quando e come vogliono. L'ideale sarebbe non lasciare traccia, assolutamente, attenersi ai segnali di fumo o al rapporto verbale senza telefonini Poi ci sono anche i profili falsi, quelle persone che magari si introducono nella tua vita mandate da tua moglie o tuo marito. Molte mogli e fidanzate fanno questa cosa, si fingono seduttrici per giocare col marito. Il grande maestro Tanizaki, quando scrisse La Chiave, c'era questo diario della moglie che raccontava focosi adulteri, non sapeva bene se fosse vero o se lo facesse per attizzare ancora più il vecchio marito. Martina è rimasta scottata. No, io non personalmente. Allora, un'amica? No, non un'amica, però volevo raccontare un episodio che mi è successo. Allora, mio marito si è iscritto a Facebook, io ero assolutamente contraria perché lo ritengo, come dicevate, appunto uno strumento di perdizione, tra virgolette. Quindi avete fatto una discussione in famiglia, posso iscrivermi a Facebook? No, non farlo. Si è iscritto assolutamente, solo che ho voluto testare la sua fedeltà e quindi praticamente tramite una mia amica l'ho contattato su Facebook per vedere come reagiva. E è sembrato che ha reagito bene, cioè non ha ceduto alle mie avance. Ma lei a che livello di avance era arrivata lei? Avevo chiesto un appuntamento. Sì, ma basato su cosa? Sull'estrema presenza fisica di suo marito? Su cosa? No, sui suoi interessi comuni e miei, fondamentalmente su questo, e poi sull'avvenenza della mia amica. Ah, la sua amica faceva da specchio. Esatto, praticamente, siccome è una ragazza molto molto bella, allora ho provato a vedere il tipo di reazione. Il rischio è che alla fine suo marito si trombi la sua amica, questo lo sa. La l'avevo tenuto in conto, però siccome lui ci teneva ad essere su Facebook, ho detto proviamo a vedere se mi posso fidare. E adesso è tranquilla? Ma quello mai, sinceramente, però diciamo che alla fine di questo test è Ma lei pensa bene. Che un marito tenuto con la cintura di castità digitale possa tutta la vita rimanere fedele, secondo lei? No, non lo so. Però proprio no, assolutamente questo no. Poi ci sono poi, insomma, all'interno di una coppia, poi insomma la moglie deve fare in modo che tutto finisce anche. Insomma, e lei da parte sua invece? Io da parte mia sinceramente Facebook non lo sopporto proprio, ho una coppia di amici che si è proprio separata da poco a causa di una conoscenza che è avvenuta tramite Facebook, tramite un cognome simile, si sono cercati, si sono trovati, sembra che sia scoppiato questo amore e adesso sono in causa e stanno separando, quindi questo è un esempio proprio pratico. Ha portato in tribunale le prove di Facebook come strumento dello scatenarsi della passione ultima? Ancora no, perché stanno andando consensualmente, quindi sembrerebbe che non arriveranno a questo, però comunque la relazione è finita, cioè il matrimonio è finito, un matrimonio di 10 anni è concluso. Vabbè, guardi, poteva accadere che improvvisamente una vicina di casa particolarmente avvenente avesse incrociato quell'uomo. Come dicevate prima, perché in Inghilterra alla fine un terzo delle relazioni finiscono anche a causa di Facebook? Cioè, perché penso forse che ci sia una sorta di connessione tra questo scatenarsi nel conoscere per forza persone nuove. Io la vedo diversamente, guardi, io la vedo che l'idea che abbiamo oggi di relazione è un'idea un pochino ammuffita e vecchia rispetto all'evoluzione della società, e quindi normalmente la gente alla fine, questa monogamia lo dice una persona che è sposata da oltre 30 anni e sta bello che tranquillo, però osservo il mondo, evidentemente non fa più parte della razionale strutturazione della società e anche della possibilità che i nostri sensi sanno che possono avere di conoscere felicemente altre persone. Avvocato, come la pensa? Ma la penso nel senso che non possiamo ovviamente tornare indietro. Facebook fa parte un po' del costume di noi italiani, ma di tutti noi occidentali. Il problema è che probabilmente dovremmo ragionare sul perché ci si rivolge a Facebook per passare il proprio tempo, perché c'è gente che sta 8-9 ore al giorno a cercare compagnie, perché non esiste più l'agorà, la piazza, il locale. Credo che questo fenomeno apra altri scenari molto più inquietanti, la solitudine. Il fatto di non saper più parlare alle persone. Oggi si parla attraverso l'SMS, la mail, la chat. Non si riesce più ad avere il rapporto vero con le persone. Però ti rispondo, avvocato, perché se ne beccano tante di più. Il fatto, dice prima, la pesca a strascico, significa che ognuno di noi, nella sua media avvenenza, capacità di relazionarsi, intelligenza, fascino, potere d'acquisto e via dicendo, normalmente cerca persone o incontra persone che hanno già saturato, almeno apparentemente, la loro volontà di relazionarsi. Attraverso questo database estremo che sono le macchine di relazione elettronica, ognuno trova l'offerta simile al suo desiderio, quindi ce n'è per tutti e in effetti è molto democratica. Riescono a razzolare incontri multipli persone che in una società strutturata in maniera analogica se ne starebbero da sole tutti i giorni, andare a recitare il rosario o magari, non so, a fare il bricolage. Ma prima quando uno desiderava una donna la pedinava, progettava l'incontro, soffriva, mandava fiori. Oggi basta mandare un SMS. Ma si risparmia un sacco di tempo. Si risparmia un sacco di soldi e tempo. Però purtroppo c'è anche un discorso di nuovi costumi, di nuove abitudini italiani. Gli italiani leggono sempre di meno, come molti occidentali, perché stanno sempre su Facebook. Sono sempre meno colti, vanno sempre meno al cinema, sempre meno al teatro, perché l'unico passatempo che li tiene fermi, bloccati, è Facebook. È un momento in cui, secondo me, poi si arriverà ad altre forme. Intanto stanno riosservando e rivalutando le loro capacità di espansione. Giovanni Pecora, buongiorno. Buongiorno a lei. Adesso abbiamo finalmente un tecnico, ci dirà le cose come stanno. È responsabile della sicurezza informatica della Datatec Sistemi. Lei sa tutto su questi strumenti. Ecco, quanto concretamente è alla portata di una media famiglia italiana l'usufruire di questi strumenti nel caso che ci fosse nell'area un po' di odore di bruciato? Ma diciamo è veramente alla portata di tutti, poi sta al modo in cui ogni persona deciderà di farne uso delle informazioni che praticamente riesce a reperire attraverso il PC, che sono davvero tante. E, diciamo, utilizzare uno strumento spia per un telefono o per un computer è diventata una cosa abbastanza semplice per l'utenza media. Vero è che comunque è anche possibile avere una tutela, una protezione di dati magari un po' più importanti per quello che riguarda gli scenari aziendali o magari scenari che hanno un peso magari di natura diversa in quello che può essere la necessità di protezione. Poi adesso gli unici interessi che ci interessa, scusi il gioco di parole, sono quelli familiari. Certo. Mediamente dove si acquistano questi oggetti o questi software? Ma su internet c'è un vastissimo mercato, quindi in linea di massima si sfugge anche a quelli che potrebbero essere i vincoli legali dei paesi che di volta in volta si vengono a trovare ad essere scenario di questo furto di informazioni. Quindi si può acquistare un software spia, così come si può acquistare un oggetto hardware che inserito in maniera opportuna nel PC dà tutta una sequenza di... L'installazione è alla portata di tutti, solo per far capire che non occorre essere ingegneri o informatici. Assolutamente no, sono degli oggetti che diciamo potrebbe utilizzare chiunque, allo stesso modo, magari in maniera non proprio così semplice ma assolutamente non complicata, ci si può accorgere della loro presenza, quindi diventerebbe una sorta di guerra fredda familiare a chi controlla l'altro, però insomma... Ecco, ci dica adesso, anzi no, ci fermiamo un istante perché dobbiamo mandare le informazioni della borsa, poi vorremmo da lei, Giovanni Pecora, una spiegazione concreta, reale, di... Cosa si rischia facendo cosa? Cioè, semplicemente scrivendo, poi cancellando, o mandando una mail, o facendo una chat, poi cercando di cancellare il log, o incontrandosi via Skype, che sembra sicurissimo. Ecco, su questo vorremmo semplicemente, per far vivere angosciosamente la mattina a tutti quelli che hanno un pochino di sorcio in bocca. Melog, la realtà condivisa. Rilevatore portatile di bugie. Bugiardi di tutto il mondo, tremate. Le vostre balle hanno le ore contate. È arrivato Rilevatore di bugie portatile Sokol, il primo rilevatore portatile di fandonie al mondo. Questo oggetto è in grado di rilevare le variazioni indotte dallo stress nel tono della voce di chi sta mentendo e di segnalarle sul display. Ovviamente non può garantire un'accuratezza del 100% nella rilevazione dei bugiardi. Si può inoltre collegare al cellulare, per esempio per verificare se il vostro partner è effettivamente in viaggio d'affari o se vostro figlio sta veramente andando a scuola. Prima dell'uso, il Voice Lie Detector va addestrato. Occorre fare all'interlocutore tre semplici domande che prevedano sì o no come risposta, così da permettere la taratura del dispositivo. Non posso garantire la funzionalità di questo oggetto, però posso dirvi che questo, come tutti quelli di cui vi abbiamo fatto sentire le schede segnaletiche, sono prese da un sito www.spyshopitaly.it, dove si trova di tutto per controllare quelle che sono le reazioni erettive fuori del lecito talamo coniugale, quindi probabilmente c'è anche questo individuatore di bugie. Vedo persone molto perplesse, altre molto arrabbiate. Cosa ci vieni dicendo? Il pubblico è spaccato a metà tra chi pensa che in realtà, allontanando lo strumento della tentazione, si ritornerebbe all'armonia di una volta, ma questo lo pensano anche alcuni paesi che intabarrano le donne e le coprono dalla testa ai piedi, pensando che così almeno non si avranno pensieri peccaminosi. Non credo che allontanando la tecnologia si allontani la tentazione. Ma la cosa divertente in questo momento di passaggio, in cui tra il mondo analogico e il mondo digitale, ci trova soprattutto nell'aula dei tribunali a dover rivedere tutte le norme, il diritto, le procedure legate appunto a questo fatto che la passione virtuale ha lo stesso peso della passione concreta. Il fatto che si consumi o non si consumi può valere, da un punto di vista giuridico, avere lo stesso peso, e quindi probabilmente si dà un valore estremo all'effetto emotivo di queste macchine. Quindi l'affermazione del valore della realtà digitale, della civilizzazione che sta avendo una fortissima spinta verso questa interazione tra uomo e macchina, la vediamo confermata in banalissime, semplicissime sentenze. Vi leggo una cosa divertente. In un'aula di tribunale italiano è stato portato e letto come appunto prova di un tradimento questa frase: che è stata presa da una chat di un signore che si era invaghito di un'altra signora che per sua sfortuna non era la legittima moglie, che si era piuttosto arrabbiata quando ebbe tra le mani, grazie a non so quale sistema, questa prova inconfutabile dell'adulterio. Lui scrisse alla sua bella: «Finalmente ho trovato con te la passione. Con mia moglie il mio uccellino era diventato triste. Come lo curi tu non lo sa fare nessuno». L'avvocato di questo signore portò a sostegno dell'innocenza del suo cliente il fatto che gestiva un negozio di animali domestici e alludeva a un passerotto che realmente, come appunto nella lirica di altri tempi, rappresentava la delizia della sua donna. Questo è tratto dal libro I perplessi sposi di Gianettore Gassani, che a Liberta Editore, che è il libro che indaga sul mondo dei matrimoni che stanno finendo. Avvocato Gassani, sì. È realmente accaduto questo fatto? Sì, ma succedono tutti i giorni queste cose, perché proprio perché si portano in giudizio le copie delle chat, gli sms con questi software, c'è di tutto, ma questo è niente. Ma c'è molto di più. Non ho motivo a immaginarlo. Quindi la cosa divertente è poi uno non immagina che ciò che è stato scritto, immaginato, allucinato nel momento di enfasi poetico-passionale, in una notte nascosta davanti al computer in cui si doveva necessariamente chiudere un lavoro importantissimo, e poi diventa oggetto di discussione quello che trascrive, quello che lo legge, la gente che ascolta. Ma è vergognoso. È difficile mantenere il controllo in giudizio, perché viene voglia di ridere davanti ai clienti, cioè anche gli stessi magistrati a volte non sanno come fare, perché poi ci sono delle frasi riportate fedelmente, proprio si dicono le cose veramente più adolescenziali, anche a 50 anni. Tutti ci rimbecilliamo in quei momenti, figuriamo chi è esente, nessuno è esente. Assolutamente. Solo è brutto vedersele lette, scritte in pubblico. Questo senz'altro. Insomma, anche il processo della separazione e del divorzio sta cambiando, perché non c'è più la relazione dell'investigatore soltanto o la testimonianza della vicina di casa, c'è questo, c'è la chat. Allora, riprendiamoci con Giovanni Pecora, che è responsabile sicurezza informatica della Datatech Sistemi. Lei ha sentito mai parlare di questo rilevatore di bugie? Sì, chiaramente sì, come tanti altri. E di cosa si tratta? No, sono molto curioso. Allora, perché io sono un grande bugiardo in assoluto, amo la bugia più che la verità, però come funziona? Ma sicuramente una base scientifica esiste, ovviamente. È come la macchia della verità che c'ha in televisione, diciamo, tante volte. C'è questo, si traccia il profilo della voce, c'è praticamente questo sistema che cerca di capire i punti, i cosiddetti wake point, che dovrebbero uscire fuori quando una persona è stressata. Ah, dallo spettro grafico della voce si capisce. C'è una sorta di apprendimento e la macchina dovrebbe interpretare uno stato d'ansia piuttosto che uno stato di tranquillità, ma queste cose lasciano il tempo che trovano, anche perché mi corre l'obbligo di dire due cose che non sarà sicuramente uno scoop, però sicuramente molti ascoltatori non lo sapranno. Quando generalmente si acquista, non questo specifico oggetto, ma in generale uno spyware per monitorare, magari il marito che vuole monitorare la moglie, generalmente queste informazioni non rimangono esclusivamente poi di proprietà, tra virgolette, dello spione, ma vengono diffusi in una community talmente vasta almeno quanto quella di Facebook, ovvero il marito sarà sicuramente contento di spiare la moglie, ma contestualmente all'indomani gli verranno fatti gli estratti conto da migliaia di chilometri di distanza, quindi sia chiaro che... Onestamente, anche io devo capire meglio, cosa significa questo? Significa che generalmente il business degli oggetti spia, perché io personalmente mi occupo di disassemblarli e di capire esattamente che cosa vanno a fare. A loro volta spiano lo spiatore? Assolutamente sì, quindi il vero questo è interessante. Questo non lo sapevo nemmeno io, lei con me fa uno scoop, non so. Quindi se io compro una microspia, il frutto del sofferto adulterio che mi farà soffrire, ma mi porterà in tribunale, a sua volta viene loggato, quindi viene messo in memoria nei server di chi mi ha dato lo strumento. 9 volte su 10, diciamo, apre una backdoor, quindi un ingresso secondario sulla macchina della persona che utilizza, quindi queste informazioni non possiamo sapere, non potranno essere discriminate, quindi praticamente chiunque poi utilizzerà quell'oggetto, quel PC, quel telefono sarà comunque soggetto a... Quindi entriamo in un loop che non possiamo più fermare. Esattamente, e la seconda cosa che comunque è altrettanto importante, che allo stesso modo, trattandosi di tutta una serie di catene di passaggi di dati, in realtà non è mai possibile se non con mezzi aggiuntivi, ma mai possibile stabilire che esattamente dietro la tastiera digitale ci sia quella persona. Quindi purtroppo non è così immediato. Ecco, avvocato Cassani, in effetti, se lei dovesse difendere lo scrittore della poesia dell'uccellino, lei potrebbe anche dire: ma non è detto che era lui a tastierare in quel momento. Diciamo che raramente sosteniamo queste tesi, anche perché poi c'è una password per entrare in quella posta elettronica, diventa difficile. Potrebbe avere chiunque, però. Dovessi avere l'alibi. Dove ti trovavi quel giorno, a quell'ora? Ecco, dove stavi? Ecco, se a casa c'erano tre amici e tutti e tre hanno visto che lui in quel momento stava lavorando al computer, è difficile dirlo. Allora te la puoi cavare. Ecco, sulle password cosa mi può dire invece Giovanni Pecora? Che tutti ci illudiamo che la password sia sicura. Diciamo prevalentemente l'errore più comune è quello umano nella sicurezza della password, ovvero magari quella di utilizzarne la stessa per vari sistemi, perché magari un sistema come attualmente può essere protetto meglio, se per esempio ha adottato l'HTTPS, il protocollo sicuro di comunicazione, che lo rende leggermente più solido e robusto rispetto ad altri sistemi di messaggistica o di posta elettronica, però utilizzando magari la stessa password anche complessi in posti diversi, quindi su macchine meno protette o su network meno protetti, alla fine si ottiene lo stesso risultato. Sul discorso della veridicità del fare o non fare un'azione su un computer, io mi riservo di questa cosa magari di studiarla caso per caso, perché una volta dopo aver rubato la password, eventualmente riuscire anche a capire da quale punto internet esiste è nata la connessione, io sono in tutto e per tutto quella persona, e lì si parla di furto di identità, che è una tematica che è un reato importante. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno, salve. Niente, io volevo intervenire in merito a quello che è stato detto durante la trasmissione, che Facebook secondo me non è, come dire, uno strumento, un fine per arrivare a fare queste cose. È uno dei tanti, adesso è diciamo Facebook perché è più conosciuto. In America, negli Stati Uniti, parlando nel dettaglio in merito alla questione dei divorzi, anche il satellitare per l'automobile potrebbe essere uno strumento di tracciabilità per cosa sta facendo un individuo. Quindi Facebook, secondo me, sta sempre a come viene utilizzato lo strumento, il social network. Attualmente io, per esempio, ero iscritto a questo social network, a Facebook, e mi sono dissociato, mi sono tolto proprio perché avevo visto che in generale l'utilizzo era un po', anche per quello che riguardava l'aspetto culturale dell'individuo, della conoscenza, era un po' denigrativo. Quindi secondo me... Beh, uno se cerca cultura va in biblioteca, va a seguire conferenze. Va in biblioteca, ma non solo, ecco, seguendo la trasmissione, per esempio ho seguito anche la trasmissione dell'altro giorno in merito a YouTube, quando si è tracciato, si è voluto rappresentare un attimino quello che sono gli interessi dell'italiano attraverso internet o questo mondo virtuale, un po' sbagliato limitarsi alla prima facciata di YouTube, perché comunque a livello YouTube all'interno ci sono delle tracce che bisognerebbe evidenziare. Cioè, sì, però guardi, allora non possiamo partire dal principio che l'umanità è fatta, l'umanità cerca la conoscenza, cerca la sapienza, cerca la salvezza. L'umanità è fatta di persone mediamente cialtrone, come siamo un po' tutti noi. Prevalgono più i cialtroni rispetto a quelli che hanno una articolata visione della vita, e questo è un dato di fatto. L'eccellenza è fatta da poche persone, se no si chiamerebbe eccellenza, ci sarebbe, vivremmo in un mondo dell'utopia. È chiaro, se noi ci fermiamo a un dato numerico e statistico, diciamo la maggior parte dell'umanità cialtrona va a vedere il brufolo spremuto piuttosto che andarsi a vedere i rarissimi testi, le cinquecentine che sono messe, pubblicate staticamente sui libri di Google. Melog, la realtà condivisa. Cell Monitor Pen Drive controlla cellulare. Cell Monitor è un pen drive ingegnoso e prudente che consente di monitorare e tracciare l'attività del cellulare. È possibile monitorare i messaggi di testo SMS, i registri delle chiamate e email, così come ottenere la posizione geografica del telefono cellulare utilizzando avanzate rilevazioni di tracciamento GPS. È semplice da installare e utilizzare e i dati vengono salvati in un sito online. Un acquisto che consente l'accesso illimitato illimitato al sistema per 5 anni dalla data di attivazione, che include illimitate memorizzazioni dei dati. Per informazioni sul rinnovo dopo quel periodo, contattare il punto vendita. È possibile utilizzare il pendrive per ragioni di sicurezza per monitorare il vostro coniuge, i dipendenti o i figli. 800240024, non possiamo ogni volta ricominciare dalla difesa o la demonizzazione delle protesi emotive. Ci sono, esistono, vengono ampiamente usate. Questa mattina analizziamo, non considerandoli come eccelsi strumenti di ricerca di sapienza, ma semplicemente nell'uso banalmente che molti ne fanno, che tutti ne facciamo, non ci nascondiamo dietro un dito, con varie gradualità, anche semplicemente gigioneggiando, sprovoleggiando, facendo i galletti o facendosi vedere nel caso delle signore con il loro vestito elegante, con la foto che le mostra particolarmente espressive, con quella fantastico abbraccio con i propri bambini, però mettendo bene in evidenza che sia al mare, che sia in costume, sia belle abbronzate, c'è un tono di luce che ci gioca particolarmente. A tutti fa piacere vedere i commenti: quanto sei bello, sei bella, quanto è interessante, quanto mi piace. A tutti piace il consenso, la passione, la lussuria dell'attenzione altrui. Non può essere considerata qualcosa di cui ci si debba vergognare. Ecco, questi strumenti la amplificano al massimo livello e danno una possibilità di raggiungere, se la cosa funziona, se l'incastro è piacevole, l'oggetto della propria attenzione, colui che ci mostra attenzione. Stiamo parlando questa mattina con un avvocato, che è l'avvocato Gianettore Regassani, che è esperto in questioni matrimoniali, che ha scritto I Perplessi Sposi, edizione Liberti, e ci sta dicendo quanto oramai il frutto degli adulteri, dei tradimenti elettronici è materia quotidiana nei tribunali. Stiamo parlando con Giovanni Pecora, che è responsabile della sicurezza informatica della Datatech Sistemi, che ci sta dicendo minuto per minuto alcune cose molto interessanti. Primo, che gli strumenti di intercettazione del cyber tradimento sono alla portata di tutti. Secondo, che sono un po' come l'antica nemesi di colui che si taglia gli attributi per far dispetto alla moglie: il controllo diventa a sua volta controllato, entra in un loop in cui poi nemmeno lui si può muovere più tranquillamente. Ma io volevo portarvi una prova in realtà di quanto questo fenomeno della passionalità diffusa, della possibilità di percepire, concepire certamen amorosi, anche attraverso strumenti che in sé paiono freddo frutto della tecnologia. Quindi parlo questa mattina con una scrittrice amica mia di vecchia data, che è Lara Cardella. Lara Cardella, buongiorno. Ciao Gianluca, come stai? Benissimo. Allora, Lara Cardella, ve lo ricordo, ma lo saprete, fu un personaggio. Nell'anno 1989 scrisse un libro, Volevo i pantaloni, un libro che raccontava di quelle che erano le vicende di una ragazza in un paese del profondo della Sicilia, che semplicemente per leccare il gelato per strada veniva considerata e guardata con attenzioni non proprio delicate. Accadde un grande scandalo, andò ospite del salottino di Costanzo, che allora era un po' meno biascicante e quindi un pochino più attento alla realtà. La Sicilia si rivoltò contro questa ragazza, io stesso andai da lei, mi ricordo, per fare un servizio. Questo libro vendette 2 milioni di copie, tradotto in tutte le lingue, fu un grande successo. Oggi Lara Cardella sta per uscire con un suo nuovo libro. Il titolo è, lo dico in anticipo perché uscirà fra un po' di tempo, fra un mesetto circa, 131 km orari, che è il primo passo della trasgressione oltre il limite dei 130, Barbera Editore. In questo libro Lara Cardella racconta un amore che nasce attraverso gli strumenti elettronici. Ti sei buttata anche te, Lara, dall'osservazione della società all'osservazione dell'amore che nasce attraverso le macchine? Dunque, distinguiamo i due piani, quello letterario e quello personale. Sono due cose completamente diverse. Non ho voluto esaminare la realtà di Facebook. Non mi interessava questo, non ho mai cercato qualcosa di particolare su Facebook. Però ci stai tanto, ci stai tanto però. Com'è? Ci stai tanto tempo. Beh, ci sto il giusto, credo. Però la sensazione che ho anche adesso sentendo quello che avete detto è che chi si innamora su Facebook non lo so, è come il bisogno di giustificarsi, come se il suo amore fosse diverso rispetto a quello, chiamiamolo reale, ma molto, fra virgolette. Io non credo che la differenza sia tra virtuale e reale, ma tra superficiale e profondo. Porto il mio di esempio, Gianluca. Ho vissuto una vita di amori molto reali, basati principalmente sul fattore estetico. Francamente non credo che quei tipi di amore mi abbiano dato molto di più. E ora io invece? Ho incontrato una persona su Facebook e l'ho conosciuta non per quello che era fisicamente, ma per quello che mi dava in più attraverso la sua poesia. Non l'avrei mai immaginato per come sono fatta. A me interessava l'estetica. Invece, conoscendo Francesco, io ho conosciuto innanzitutto la sua poesia, poi l'uomo, poi, soltanto poi, veramente, quello che è l'aspetto più superficiale, che è appunto il fisico. Quindi ci conferma Lara Cardella, mi spiace siamo in conclusione ma ritorneremo a parlare del suo libro, esattamente quello che diceva l'avvocato. Su un piano legale, sul piano dal punto di vista della trasgressione, della violazione delle regole, l'amore in concreto ha lo stesso peso dell'amore concreto. Sul piano sottile, poetico, dell'amore, dell'innamoramento, la scrittrice ci dice: io ho avuto tanti amori, e l'ha tutti descritti nei suoi libri, con dovizia di particolari, concreti, reali, perché ero attratta da persone. Da questa persona, che è protagonista di questo libro, sono stata attratta semplicemente dalla sua capacità di esprimersi poeticamente. Poi l'ho conosciuto, poi è nato l'amore. E invece, per l'ascoltatore Carlo, la cosa è lievemente diversa. Carlo. Sì, salve, buongiorno. Lei cosa ha fatto? Carlo è un nome... È nome un fittizio. Nome assolutamente falso. Sì, sì. Tanto lo riconoscono dalla voce, tranquillo. Prego. Infatti, va bene. Cosa ha combinato? Velocissimo. Velocissimo. Io mi sono iscritto in un sito di incontri, non come Carlo, ma come mia moglie. Ma cercava uomini? Lei cercava uomini o voleva soltanto vedere se sua moglie ancora attizzava il mondo? Tutte e due le cose. Nel senso, non cercavo uomini perché sono eterosessuale. Volevo vedere esattamente come si comportava la concorrenza, per non fare gli stessi errori che fanno normalmente gli uomini in un approccio di una donna. E cosa è accaduto? Donna. Quanti hanno corteggiato sua moglie? Guardi, un'infinità pazzesca, avrò avuto almeno 700 contatti. Se ne faccia una ragione. Vuol dire che sul mercato lei ha qualcosa che vale almeno 700 contatti. Non so se le consiglio di rivolgersi a Giovanni Peco, al responsabile di sicurezza, o all'avvocato Gianettore Gassani, però ha un problema in famiglia, se ne renda conto. A domani.